qui siamo veramente a quella che è stata chiamata post-democrazia, autocrazia elettiva, democrazia senza popolo, tanto che diventa oggi perfino difficile distinguere quali paesi sono democratici, democrazie più o meno virtuose o difettose, e quali invece hanno superato la soglia, corrispondono ancora ai requisiti. Ci sono neologismi come democrazie illiberali, democrature. I tratti sono verticalizzazione, concentrazione del potere, con il supremo paradosso che questo potere sommamente concentrato nelle mani di pochi è poi il potere di obbedire agli ordini della finanza, delle multinazionali, quindi concentrazione del potere politico in un contesto in cui le vere decisioni si prendono altrove. E allora la spiegazione non deve richiamare in campo soltanto una serie di riforme che pure sono importanti ricordare. Pensiamo in Italia alle riforme che sono state adottate dall'intero arco, insomma, centro-sinistra, centro-destra, riforma della legge elettorale, riforme degli enti locali, elezione diretta del presidente della regione e poi via via i tentativi di riforme, Berlusconi, Renzi, adesso il premierato. Non c'è solo questo, ma c'è anche un processo che ha visto la vittoria dell'egemonia neoliberale, che vuol dire a livello globale arretramento della politica rispetto a una visione che ci dice che il mondo va così e non si può cambiare, il famoso time della Thatcher, non ci sono alternative, il che comporta lo scoraggiamento, la rassegnazione di chi si chiede perché dovrebbe partecipare a un gioco, il gioco politico, che poi non ha la capacità di cambiare le cose. Rispetto alla subalternità della sinistra, a una visione verticistica che oggettivamente viene da destra, io mi limito a ricordare che la legge che ha introdotto l'elezione diretta dei presidenti della regione, introducendo proprio un corpo estraneo nel nostro sistema parlamentare, sistemi che sono ricalcati su modelli iperpresidenzialisti. Ecco, quella legge è molto debitrice di un personaggio che si chiama Pinuccio Tatarella, che è stato capogruppo del Movimento Sociale Italiano in Parlamento, poi esponente di spicco di Alleanza Nazionale, cioè anche allora subalternità a una visione di democrazia che viene da destra, dall'estrema destra, che finisce con identificare la democrazia con la scelta del capo e con l'identificazione in un capo. Estremizzando è il motto fascista, duce sei tutti noi, dove la rappresentanza è una rappresentanza identitaria, simbolica, che non ha niente a che fare con la democrazia, che è pluralismo e che è conflitto, di modo che una carica monocratica non potrà mai rappresentare nella loro pluralità le diverse posizioni, interessi di classe che esistono nella società. Però ci siamo arrivati per una forte subalternità della sinistra alla destra, frutto di una sconfitta storica della sinistra. Allora lì, se vogliamo, dobbiamo allargare ancora il discorso a partire dagli anni Ottanta, una sconfitta che non riguarda ovviamente soltanto il nostro paese, su cui bisogna riflettere. Nel libro tracci un profilo di coloro che non sono rappresentati. Ecco, chi sono quelli che non vanno a votare? Quelli che non vanno a votare sono un paradosso, perché appunto esistono anche coloro che non vanno a votare perché non possono andare a votare, non hanno il diritto di voto, sono nei nostri sistemi, in particolare gli stranieri residenti, ma c'è anche chi il diritto di voto ce l'ha e non lo esercita. Ciò che è paradossale è che gli studi ci dicono che sono soprattutto i più poveri, più marginali, più periferici, le classi subalterne, diciamo, che non votano. Evidentemente perché non identificano più nel voto un veicolo di cambiamento sociale. È un paradosso, sono gli stessi, le classi pericolose, che un tempo erano esclusi formalmente dal voto. A lungo il criterio per riconoscere il diritto di voto era il censo, e ci sono volute delle battaglie molto grosse per per superare questo principio. Oggi invece ci troviamo di fronte alla secessione dei poveri, con degli effetti enormi sulla rappresentatività delle istituzioni, perché gli interessi, i bisogni di queste classi non sono presenti in Parlamento. Io credo però che quando parliamo di astensionismo, fermarsi al fenomeno del disinteresse nei confronti del voto sia davvero riduttivo, perché qui c'è un problema più grande, che un problema di disaffezione dalla politica e di distacco dovuto alla difficoltà a percepire appunto la politica come un veicolo di cambiamento, una difficoltà anche a interpretare in chiave politica i problemi. Sul luogo di lavoro i lavoratori sono divisi, no? Ciascuno con un contratto diverso, e il sistema, l'organizzazione delle aziende, ma ormai anche delle amministrazioni pubbliche, fa di tutto per dividere i lavoratori, per metterli in concorrenza l'uno con gli altri e per trasmettere il messaggio che chi non riesce, chi fallisce, merita di avere di meno di chi ha successo. Ecco che anche le sofferenze che si vivono sul posto di lavoro vengono affrontate, che so, andando dallo psicologo, in modo privato, come se non si trattasse di sofferenze che hanno un'origine collettiva. Andrebbero quindi affrontate in modo collettivo. Affrontarle in modo collettivo vuol dire organizzarsi, vuol dire uscire dal proprio particolare, vuol dire costruire un qualche soggetto che vada oltre e consenta di superare il nostro isolamento. Un'altra tipologia di non rappresentati sono invece quelli che votano, ma che pur votando non contribuiscono ad eleggere alcun rappresentante. Sì, molti di noi si sentono non rappresentati, perché poi quando ci sono le elezioni si trovano di fronte alla prospettiva di turarsi il naso, no? Oppure di decidere di votare per formazioni politiche che non hanno chance. Qui il problema sono le leggi elettorali, sono le forme istituzionali. E davvero qui in Italia dobbiamo ancora fare molto per superare quella ubriacatura per il maggioritario che è data a inizi anni 90. Più in generale sono i sistemi che ci impongono di scegliere una persona, no? Nel collegio o di fronte all'elezione del premier o del presidente, che tagliano fuori chi non ha possibilità di, fosse anche il 49% che vota contro quella persona. Per cui, di nuovo, una carica monocratica è rappresentativa solo in un'accezione simbolica, che non è di per sé democratica. Questo tema oggi anche per noi è centrale, perché abbiamo di fronte a noi la riforma del cosiddetto premierato, che ci viene proposta nel nome dell'efficienza, della stabilità, ma anche subdolamente della restituzione del potere di contare ai cittadini. Ricordiamo la Meloni, come aveva presentato in TV questa riforma, ma qui si tratta di intendersi su ciò che intendiamo per democrazia, se la scelta del capo, che poi avrà mani libere e farà quello che vuole, o se è la scelta di coloro che andranno a formare un organo collegiale, inteso come il luogo della mediazione, della discussione e della ricerca di compromessi tra le diverse prospettive, diversi bisogni, diversi interessi. Quindi sono due modelli profondamente diversi, dietro ai quali ci sono delle letture diverse della crisi dei nostri sistemi. A lungo si è detto e si continua a dire: in Italia c'è un problema di crisi di governabilità, mentre invece c'è semmai una crisi di rappresentanza, carenza di rappresentatività delle istituzioni, con un Parlamento, ma non solo il Parlamento, i consigli regionali, no? I consigli comunali, che finiscono con avere solo la funzione di ratificare decisioni prese dagli esecutivi. Terza tipologia legata ai non rappresentati sono coloro che non possono proprio votare, in particolare gli stranieri lungo residenti. Anche nell'Atene democratica i meteci, gli stranieri residenti, erano esclusi. Però è significativo che anche allora questa esclusione fosse priva di giustificazione. I grandi filosofi non producono argomenti convincenti. Aristotele ci prova, e lui stesso un meteco, tra l'altro, ad Atene. bene, e finisce col concludere che è solo per ragioni utilitaristiche che la cittadinanza è ristretta solo ai figli di genitori entrambi ateniesi. Oggi le cose sono diverse, però rimane questa esclusione tanto più grave e in contrasto con i principi democratici quanto più aumenta il numero di coloro che provengono da altri paesi e vivono accanto a noi. Di nuovo, dal punto di vista dei principi democratici, la democrazia è quel sistema in cui chi è tenuto a obbedire alle leggi ha il diritto e potere di contribuire a scriverle, quelle leggi, e quindi è privo di qualsiasi giustificazione che qualcuno sia solo suddito e non cittadino, qualcuno sia tenuto ad obbedire, a pagare le tasse e non a anche essere attivo. Essere privo di diritti politici poi significa essere più vulnerabile da tutti i punti di vista, quindi in questo momento guardiamo agli Stati Uniti, ma guardiamo anche i progetti di re-emigrazione che vengono formulati dalle destre in Europa, la battaglia per l'estensione dei diritti, tutti i diritti, ma anche quelli politici, alle persone di origine straniera, è veramente una battaglia di civiltà e dovrebbe essere messa al centro da formazioni di sinistra. Insomma, i nuovi proletari sono lì e sono anche in qualche modo il popolo dei migranti, e Luigi Ferraioli l'ha chiamato il popolo costituente di un futuro possibile, perché ci ricordano le diseguaglianze scandalose che esistono a livello globale, che noi non vogliamo vedere. E per questo costruiamo le fortezze senza riuscire a frenare il loro arrivo, ma è solo prendendo coscienza di queste diseguaglianze e della necessità di ripensare profondamente l'ordine globale che potremo tentare di riformulare un programma di sinistra che sia all'altezza con la tradizione, insomma, da cui veniamo.